Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Guarda che bel pianeta è, tutto nostro se stai con me. Da oggi vivremo qui tenendoci per zampa. Alle cose che vedo io e a tutte quelle che scopri tu, diamogli un nome su tenendoci per zampa. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012, 10 anni fa, mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva antispecista, secondo la quale l'essere umano non ha più diritti e più valore degli altri viventi non umani. Per questa redazione ogni vita è meritevole dello stesso rispetto. E questa è la puntata numero 633, nella quale continuiamo a seguire la cronaca dall'Ucraina, dove oltre alla popolazione civile a soffrire sono anche gli animali non umani. Torniamo nella provincia autonoma di Trento, tristemente famosa per le difficoltà di convivenza tra la specie umana e la fauna selvatica, per dare una piccola buona notizia. Vista la siccità del momento, poi lanciamo un appello a favore degli anfibi, animali delicatissimi e a rischio estinzione. Infine, per ristorarci in un periodo così deprimente, abbiamo pensato di cercare consolazione nella cultura. Faremo insieme una scorpacciata di buoni libri da leggere, ma anche ottima musica e cucina cruelty free. Speriamo di avervi incuriositi. La tua zampa è troppo bella, sai. Merita un nome speciale da me, e mano io la chiamerò. La mia mano è chiusa nella tua. Per quanto tempo sarò con te, lo chiameremo eternità tenendoci per mano. Tenendoci per mano. La situazione in Ucraina è molto delicata e volubile. Oggi, quando stiamo registrando questa puntata, siamo preoccupatissimi per Andrea Cisternino, il cittadino italiano di professione fotografo che in Ucraina gestisce ormai da anni un centro per la protezione degli animali abbandonati vicino a Kiev, sulla direttrice delle forze armate russe provenienti da nord. Cisternino ad oggi è a rifugio con altre 4 persone, sono senza acqua, senza viveri, senza elettricità, però Andrea Cisternino afferma che non intende lasciare il rifugio ai suoi animali e chiede di trovare un modo per far uscire i suoi animali da questa situazione. Facciamo adesso un salto indietro nel tempo per chi non conoscesse questa storia. 10 anni fa, nel 2012, proprio nei giorni in cui inauguravamo la nostra trasmissione, a causa degli europei di calcio che si dovevano tenere in Polonia e in Ucraina, l'Ucraina dimostrò un rapporto molto problematico con il rispetto dei diritti animali e portò avanti un'atroce operazione di soppressione di oltre 20.000 randagi a suon di veleno, bastoni, fucilate e incendi ai ricoveri per pure ragioni di immagine, come documentò coraggiosamente questo nostro fotoreporter italiano a Kiev. Andrea Cisternino e la moglie si sono spesi tantissimo contro la barbarie che era stata sostenuta da poderosi giri di denaro e denunciarono le azioni spregevoli di alcuni dog hunter, ma anche delle istituzioni che sono solite indire bandi pubblici per l'eliminazione fisica dei cani. Mettendo a rischio le loro stesse vite, Andrea e la moglie hanno aperto un rifugio chiamato Rifugio Italia, nel quale inizialmente ospitavano i cani e i gatti recuperati dai massacri. Nel 2015 il rifugio ha subito un incendio doloso, perché naturalmente la loro attività era scomoda, nel quale morirono decine di animali, per la precisione 75. Il rifugio è cresciuto poi negli anni e adesso ospita più di 400 animali. A cani e gatti si sono aggiunti anche tanti animali da reddito. Nel 2013 noi abbiamo incontrato di persona Andrea Cisternino, c'è traccia di questo nel nostro blog restiamoanimali.it, dove se digitate nella ricerca Cisternino viene fuori tutto il materiale. Lo abbiamo incontrato, dicevamo, quando venne a presentare il suo libro di fotografie dal titolo Randagi, storie di uomini e animali, un documento bello e doloroso di fotografie scattate prima delle terribili stragi del 2012, delle quali rimase vittima anche Cucciolo, il cane di Andrea, morte che ha poi scatenato in lui la rabbia e il desiderio di verità, giustizia e riscatto. Le foto del libro raccontano la stretta relazione di cooperazione, di mutua assistenza che viene a crearsi tra persone senza fissa dimora e i cani randagi, due specie differenti, ma entrambe impegnate a cavarsela con tecniche di sopravvivenza, vivendo una vita durissima ai margini della società umana. In quella occasione, appunto, abbiamo incontrato anche Ciliegia, una cagnolona bellissima che si muoveva molto agilmente con il suo carrellino posteriore. Ciliegia era sopravvissuta agli eccidi nelle strade di Kiev, dove l'avevano colpita con alcuni proiettili. Ha perso tutti i suoi figli e l'uso delle zampe posteriori, ma non ha perso la voglia di vivere. E qui c'è l'happy ending, perché Ciliegia era stata adottata da una coppia di persone in Toscana e quindi era arrivata in Italia dall'Ucraina. La situazione si sta facendo nel rifugio di Andrea Cisternino ogni ora più drammatica, sia per lui che per i suoi collaboratori e per i 453 animali di tutte le specie che sono ospitati dal rifugio. Gli sforzi della Farnesina avrebbero come obiettivo quello di far arrivare la Croce Rossa a portare viveri, ma serve un accordo con i russi, accordo non semplice dal momento che l'Italia si è messa in una brutta situazione diplomatica avendo mandato armi in Ucraina. Cisternino continua a dichiarare che non si muoverà comunque mai da lì senza i suoi animali. Seguiremo la vicenda e vi aggiorneremo la prossima settimana nella nostra prossima puntata. Caro il mio Leonida, io non ne posso più, sei uno spartano troppo serio tu. Cara le Termopili, la storia svolterà, qui si fa il progresso, qui la civiltà. Caro Cicerone, Catilina, ma chi è? Hai sposato lui o hai sposato me? Faccio l'avvocato, il mio lavoro è questo qua, è per il progresso, per la civiltà. Pensi alle crociate, tu a me non pensi mai, cuore di leone, ma che cuore hai? Obbedisco agli ordini di nostra santità, è per il progresso e per la civiltà. Qui mi sa che solo in paradiso mi vedrai, Dante io ti aspetto, che intenzioni hai? Guarda che divina la commedia che ho da far, è per il progresso e per la civiltà. Cambiamo argomento e dall'Ucraina torniamo in Italia, per la precisione nella provincia autonoma di Trento. Nella situazione sempre delicatissima dei grandi selvatici nel nostro paese, abbiamo una piccola notizia positiva e ci teniamo a condividerla con voi. Come ricorderete, nel giugno 2021 la provincia autonoma di Trento aveva approvato linee guida provinciali per la gestione degli orsi che contemplavano la possibilità di derogare al regime di protezione dell'orso previsto dalle norme nazionali ed europee. Purtroppo nel nostro ordinamento l'abbattimento di un orso è comunque già previsto, però il limite consiste nel dover valutare caso per caso la sussistenza o meno di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità. Le linee guida provinciali, invece, avevano introdotto un automatismo di fatto tra l'aggressione con contatto fisico e l'abbattimento dell'animale, senza lasciare alcuno spazio alla necessaria valutazione caso per caso della sussistenza di un pericolo per l'incolumità pubblica. Il 29 settembre 2021 il Tribunale Amministrativo del Trentino aveva annullato le linee guida provinciali, ma la provincia autonoma di Trento non si era data per vinta e aveva fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato, venendo nuovamente sconfitta pochi giorni fa. È profondamente sbagliato, dichiarano la Lega Nazionale del Cane e WWF Italia, continuare a individuare l'orso come una specie naturalmente pericolosa e dannosa e pretendere di gestirla in modo autonomo, senza coinvolgere lo Stato, come sarebbe previsto dalla Costituzione, secondo un modello incentrato non sulla promozione della convivenza, ma sulla risoluzione cruenta dei conflitti. La pericolosità degli orsi non è basata su dati scientifici, ma su una percezione che non è dimostrata. resta comunque da parte nostra la preoccupazione per una convivenza che si sta facendo sempre più complicata tra cittadini insofferenti, pubbliche amministrazioni interventiste e i media, sempre pronti a puntare il dito, a spettacolarizzare e a drammatizzare incidenti anche di piccole entità. Ricordiamo infine che nella prigione del Casteller, nella provincia autonoma di Trento, per un periodo sono stati tenuti prigionieri 3 orsi, in condizioni deprecabili. E lì è ancora prigioniero M49, Papillon, l'orso che era riuscito avventurosamente a scappare ben 2 volte. I suoi compagni di prigionia hanno avuto sorti molto diverse. JJ4 ha riconquistato la libertà grazie a una sentenza del TAR, mentre M57, invece di vivere libero nei suoi boschi, è stato purtroppo deportato in una specie di zoo nella regione di Pest, in Ungheria, che già ospita una 30 di orsi, molti dei quali provenienti da zoo della ex Jugoslavia o da circhi. Insomma, un orso buono per le foto dei turisti e per strappare sguardi di stupore ai bambini. Noi non smetteremo mai di chiedere giustizia e libertà per tutti gli orsi. Sì, la stampa lo dirà, è per il progresso e per la civiltà. Caro il mio Cristoforo, tu mi hai mollata qui, tu stai in America o giù di lì. Isabella, un attimo che scopro Panama, è per il progresso e per la civiltà. Caro Luigi XVI, ma quanta gente c'è che vuol dire liberte paternite. Dice che per tutti re è ora di scappare, dice che progresso e che civiltà. Caro George Washington, ma dimmi un po' perché io non devo bere con gli inglesi te. Bevi l'acqua e la rivoluzione si farà, è per il progresso e per la civiltà. Signorina Nightingale, al fronte cosa fai? Curerò i feriti se mi lascerai. Una donna in guerra, ma cos'è una novità? È per il progresso e per la civiltà. Signorina Luxemburg, con lei non parlerò. Caro signor Krupp, io la costringerò. Organizza scioperi, che donna è questa qua? È per il progresso e per la civiltà. Dai grandi orsi passiamo ad animali molto molto più piccoli. Il 22 marzo scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. È paradossale il fatto che questa celebrazione si sia svolta in un periodo di terribile siccità. L'acqua, infatti, è una risorsa sempre più scarsa e sempre più preziosa, tanto da minacciare la stessa sopravvivenza dell'uomo sul pianeta. L'inverno appena trascorso è stato uno dei più aridi e più caldi della storia del nostro paese. Precipitazioni quasi inesistenti, temperature superiori alla media, perdita di ghiacciai, tutto questo ha ridotto a secco le nostre riserve idriche e ha gettato ombre inquietanti sul futuro dei prossimi mesi. La situazione rischia di precipitare quando, a breve, partirà la stagione delle irrigazioni. In questo contesto, l'Accademia Nazionale dei Lincei, per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua, ha tenuto un convegno dal titolo Ambiente e grandi rischi naturali, sui rischi legati al depauperamento della biodiversità dovuto all'azione umana. La denuncia non ha fatto molto rumore, però è di gravissima entità, perché sono a rischio estinzione il 41% delle 8.000 specie anfibie note a livello planetario. Bisogna ammettere di non sapere praticamente niente degli anfibi. Si sa forse qualcosa su rospi e rane, poco o nulla sui tritoni. Di salamandre e raganelle personalmente conosco solo il nome. Eppure sul pianeta ne esistono di ben 8.373 specie. E sono animali particolarmente delicati perché hanno una pelle permeabile all'ossigeno, il che offre una barriera veramente modesta alle sostanze inquinanti e ai microrganismi patogeni. Hanno un forte legame con gli ambienti acquatici, spesso proprio con quelli più fragili. Si stima che negli ultimi 50 anni circa 200 specie di anfibi si siano estinte a causa di malattie, eccessivo prelievo da parte di collezionisti e cambiamenti climatici. Ci è saltata agli occhi, tra le cause di estinzione, quella meno scontata. Vabbè, intanto il collezionismo di anfibi vivi, ma quello è abbastanza ovvio. Però c'è un rischio anche legato ai tanti fotografi dilettanti e professionisti che sfruttano le vivaci colorazioni e le forme accattivanti di questi animali, rubando fotografie che spesso comportano di toccarli, rimuoverli dal loro habitat, oppure piazzare il cavalletto nelle pozze in cui vivono rischiando di contaminarle. Tutte violazioni all'etica naturalistica. Secondo gli accademici dei lincei sarebbe necessario un decalogo etico e morale secondo il quale l'ubicazione delle popolazioni naturali di specie a rischio non andrebbe mai svelata e nel momento dell'eventuale scatto fotografico sarebbe indispensabile mantenere le distanze e gli accorgimenti tecnici per salvaguardare soprattutto il benessere psicofisico degli animali. Chiediamo a tutti di ricordare queste norme virtuose, specialmente sui social media, dove spesso compaiono foto scattate in modo irresponsabile. Se in una pelliccia, dice l'orsa, si farà un cappotto con la mia, e tu dovrai nasconderti, cambiare le abitudini, ma sai che un rompiscatole quest'uomo qui. Se non è veloce, fa il cavallo, vorrà fare strada in groppa a me. E tu dovrai filartela, abbandonare i pascoli, ma sai che un rompiscatole è quest'uomo qui. Come sa chi ci segue da tempo, ci piace molto proporre recensioni di libri che trattano la questione animale in modi sempre originali e diversi. Stavolta è la nostra Anna Granata ad essersi cimentata in una lettura e recensione. Sentiamola. Il libro I miei stupidi intenti, scritto da Bernardo Zannoni, autore 26enne di Sarzana al suo esordio, e edito da Sellerio, racconta la storia della faina Arci che da cucciolo perde il padre, che scoperto a rubare viene ucciso dall'uomo. La madre, rimasta senza compagno, diviene dura e astiosa e fatica ad occuparsi della prole. Lascia morire il cucciolo più debole e Arci, in seguito ad un incidente che gli causa una zoppia, viene venduto come servo da lei alla volpe usuraio Solomon. Solomon costringe Arci a lavorare sodo, ma nel contempo lo avvicina alla conoscenza della parola scritta e a ciò che lui suppone essere Dio. E ciò condizionerà il resto della sua esistenza. Con una scrittura molto fluida e appassionante, la storia di questi animali corre su un filo sottile, sempre in bilico tra la crudeltà di una natura animale spinta dall'istinto di sopravvivenza e la perversione del ragionamento umano su Dio e la morte, sul potere e la ricchezza. Ai fini della narrazione viene attribuita ai protagonisti una malvagità e una spietatezza attinti dal mondo degli umani, che allontana il lettore da un qualsiasi pensiero empatico nei loro confronti. L'uomo non è presente in questa storia, ma l'idea della sua esistenza corrompe una natura già eccessivamente matrigna che non concede che un piccolo accenno all'amore per poi negarlo. I personaggi animali non sono che un pretesto per parlare di tutto ciò. È un libro che attrae e respinge allo stesso momento. La lettura è veloce ma amara, dura per chi ha un rapporto empatico con le altre specie. Un giorno, di mattina presto, mia madre si svegliò. Leroy, già seduto al tavolo in cucina, mangiava qualche bacca e lei ne diede qualcuna anche a me. «Mamma, mangia e stai zitto». Leroy mi squadrava imperioso. Non aveva più parlato a nessuno di noi da quando aveva dimostrato di essere maturo. Uscimmo in silenzio dalla tana. Mi venne il terrore che avessero deciso di uccidermi perché uno zoppo era solo un peso. Fra poco mi avrebbero attaccato insieme e mi avrebbero servito a tavola il giorno dopo. «Mamma, seguici e smettila di parlare». Ci addentrammo nel bosco, oltre i tre torrenti. Non riuscivo a stare al loro passo, così mio fratello doveva aspettarmi. «Dove andiamo, Leroy?» Riprendeva subito a camminare. Quando mi fu chiaro che ci stavamo allontanando troppo, non pensai più che volessero uccidermi. Per farmi passare la paura, immaginai mi stessero portando dal dottore. Mi curavano per farmi diventare come nuovo. Nostra madre aspettava all'inizio di un prato, fra gli alberi. Appena prima dell'erba alta ci addentrammo tutti assieme. Al centro del prato c'era una collinetta, sopra di essa un grosso macigno. Ai suoi piedi un paio di finestrelle scavate nel terreno. Nostra madre bussò a una delle due. Qualcuno la vide e andò ad aprirci la porta. Entrammo dentro una stanza molto grande, buia e piena di sacchi di cibo. C'era un odore dolciastro. In un angolo in quella stanza, vicino alla finestra dove nostra madre aveva bussato, stava seduta una vecchia volpe, illuminata da una piccola lampada. Ci fermammo a pochi passi da lei. «E lui, Annette?» disse la volpe, indicandomi. Fui scosso da un brivido. Scoprivo il nome di mia madre. «Sì», rispose lei. «Sembra sano. È zoppo, non corre. A me non serve più». La vecchia volpe rise. «E a me sì? Può lavorare. Sei vecchio e non puoi trovare di meglio». Guardai mia madre, dritta nei suoi occhi di tenebra. «È il dottore?» mi diede uno schiaffo. Trattenni il fiato e mi ingobbii senza dire più niente. Leroy osservava impassibile. «Una gallina, Annette, non ti darò di più». «Una gallina e mezzo, come d'accordo». La vecchia volpe si alzò. «E sia, ma la metà dopo un mese, e solo se lavora come dici». Nostra madre non rispose. La vecchia volpe entrò in un'altra stanza e tornò con un pollo senza testa. In una delle cosce aveva un segno che conoscevo, quella di Solomon, l'usuraio. Mi vendevano a lui per una gallina e mezzo. Si girarono per andare alla porta, ma mi attaccai a lei. «Mamma!» mi spinse via, le cadde la gallina. «Non piangere, merdoso!» mi disse. Ma già piangevo e avevo il fiato spezzato. Lei raccolse la gallina e si avviò alla porta. Ringraziamo Gianluca Masala per il montaggio musicale di questa recensione che secondo noi è riuscito particolarmente bene. Sei in ora le zanne, fai il cinghiale, si farà prestare i denti miei e tu dovrai difenderti, passare per selvatico, ma sai che ho rompiscatole quest'uomo qui. Povere mie penne, fa il pavone, alla sua ragazza le darà. E senza la tua ruota tu dovrai restare scapolo, ma sai che ho rompiscatole quest'uomo qui. Se non fa le uova, dice il gallo, quelle di mia moglie mangerò. I polli che ci nascono saranno commestibili, ma sai che ho rompiscatole quest'uomo qui. I conigli, i pesci e le pernici, tutti si lamentano così. E noi che siamo piccoli ci mette tutti in pentola, ma sai che ho rompiscatole quest'uomo qui. E noi che siamo piccoli ci mette tutti in pentola, ma sai che ho rompiscatole quest'uomo. Un altro progetto culturale che ci convince è Liberi di essere gatti, un particolare format che unisce fotografie e storie dei gatti liberi che vivono nella città di Venezia. A presentarci il progetto sarà la voce della referente Marianna Zampieri, cat photographer e ideatrice del progetto Cats in Venice. L'appuntamento è a Modena il 9 aprile, dove Liberi di essere gatti debutterà venendo presentato al pubblico per la prima volta. Le persone interessate a partecipare all'incontro o a organizzare una data del progetto presso la loro città possono cercare su Facebook Liberi di essere gatti o Marianna Zampieri. Liberi di essere gatti è un format che nasce da un'intuizione di Anna Mozzati, la quale mi ha contattato pochi mesi fa dopo aver visto le fotografie del progetto Cats in Venice. Cats in Venice è un progetto fotografico a cui mi dedico da circa 4 anni e mezzo e in cui mi occupo di fotografare i gatti che si aggirano liberi per le calli di Venezia. Sono fotografie in bianco e nero E di ogni gatto ritratto poi ne racconto anche la storia, quindi le caratteristiche, qualcosa che riguarda la sua personalità, magari qualche aneddoto per far conoscere un po' meglio questi gatti appunto ritratti nelle fotografie. Anna in queste immagini ha visto la possibilità di poter fare qualcosa insieme, di collaborare, e quindi abbiamo deciso di proporre questo format, di inserire e coinvolgere Cecilia Morello e Elena Savani, creare quindi una serie di incontri in cui, analizzando le fotografie proprio del progetto fotografico, che ritraggono questi gatti liberi di muoversi in un contesto urbano unico nel suo genere, si crea lo spunto per parlare dei comportamenti felini e della ricchezza della loro vita, che spesso l'uomo non ha la possibilità di conoscere davvero. Questo confronto potrebbe essere utile per stimolare una presa di coscienza rispetto alle responsabilità che ci si assume quando, pur con le migliori intenzioni, si prendono decisioni in nome dei gatti. Quindi l'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sul tema dei gatti liberi, scoprire lati della comunicazione felina e approfondire il repertorio comportamentale del gatto. E siamo curiosi di vedere la reazione delle persone e di chi sarà interessato a partecipare. Per concludere la puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta che avesse in qualche modo a che fare con i misteriosi animali anfibi. Andiamo a sentire qual è la sua proposta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E a proposito di anfibi, lo sapevate che il ranuncolo favacello deve il suo nome alla rana perché predilige un habitat simile a quello di questo anfibio? E probabilmente in pochi sapranno che, seppur con moderazione, poiché in grande quantità potrebbe risultare tossica, questa varietà di ranuncolo è usata in cucina. Quella che vi sto per raccontare, ad esempio, è una salsa modenese, personalmente rivisitata in versione vegan. Gli ingredienti per 4 persone per la salsa modenese al ranuncolo favacello sono 50 ml di latte di soia, 70 ml di olio di semi di girasole, 30 ml di olio extravergine di oliva, un pizzico di curcuma in polvere, 2 cucchiai di zucchero di canna, 30 ml di aceto di mele, 2 cucchiai di boccioli di ranuncolo favacello e un pizzico di sale. Nel bicchiere di un frullatore ad immersione unite il latte di soia, le 2 varietà di olio e la curcuma. Emulsionate partendo dal basso e salendo lentamente verso l'alto. Unite l'aceto precedentemente fatto intiepidire a bagnomaria ed emulsionate nuovamente. Versate il composto così ottenuto in una boule e, mescolando con una frusta, unite lo zucchero, il sale ed i boccioli di ranuncolo tritati molto finemente. Lasciate raffreddare e servite per accompagnare crudité, verdure grigliate, al vapore o per condire una bella insalata di radicchi di campo. Userà il cervello e questo amico bello è la novità. Sarà intelligente oppure deficiente se gli converrà. Ma che strana bestia, ma che strana bestia è, se non sa far niente perché c'è. Essere incivile che farà venire i nervi, nervi a me. Giunti a questo punto, noi ci siamo accorti che quest'uomo è un raccomandato, già predestinato a fare lui il re. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano.